come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sulla vicenda Palermo, sulla vicenda Orlando, caro Parenzo. Ma che hai messo una canzone d'amore adesso? No, non ho messo una canzone d'amore. Come si cambia? Ma sulla vicenda Palermo, Orlando, bastano due audio, bastano due voci. Due voci, caro Parenzo, ne bastano due. E la discussione si potrebbe chiudere, terminare. Ci potrebbe essere una pietra tombale sopra la vicenda Orlando, la tragicommedia delle primarie del centrosinistra. E della... sembra apocalittico comunque. No, non sono apocalittico, ma tu ti lascio prima ascolta questa roba qui. Ascoltate, vediamo. Tutti voi che siete all'ascolto della Zanzara su Radio 24, so che stai malissimo, ma ti faccio ascoltare queste due cose e poi mi dirai anche tu: beh, basta, è tutto finito, basta, non c'è più nulla di cui discutere. Sì. Allora, il 9 marzo, se non sbaglio, il 9 di marzo, anzi il 12 di marzo, da Alessandro Milan qui a Radio 24. Ottimo questo Milan. Così dichiarò Orlando. No. Orlando ha detto in lingua aramaica, ma anche in lingua fenicia, scelga lei quella lingua preferisce fra le due più antiche alfabeti del mondo, che non era candidato, non si considerava candidato e non sarà candidato. Il tema non riguarda Luca Orlando, riguarda la qualità etica di una competizione elettorale. Questo non un anno fa, due anni fa, tre anni fa, quattro anni fa, no. L'altro giorno, oggi Orlando, oggi, sì. Oggi, senti. Beh, forse avrete capito che io mi candido al sindaco di Palermo. Non l'avevo ancora detto, ma forse è un opportuno dire. E che c'è da aggiungere? No, spiegami, cosa c'è da aggiungere? C'è da abbassare la Claire. Bravo, ecco, hai capito bene anche tu, Sì, sì, sicuro. Allora, Diliberto. Però poi in politica ha ragione il nostro amico Rotondi, già ministro, sì. Che diceva, citava la massima di quello storico democristiano, cioè in politica le cose valgono nel momento in cui si dicono. Cioè non valgono nulla, anche un secondo. Sì, però qui no, sì, è vero. Non valgono un cazzo. Sì, è vero. Puoi dire in quel momento 30 secondi lì. Si può dire anche così, si può dire il anche dopo così. Cambia tutto. Non berrò mai più un caffè con Fini. Con Bossi, chi lo disse? Fini? Eh sì, e poi l'hanno bevuto per tanto tempo insieme, no? Sì, vabbè, certo. Diliberto, non ho decifrato la scritta nuova versione di Libertiana ieri sera della famosa questione. Sta esagerando questo povero Diliberto. Diliberto. Le posso assicurare che siccome sono una persona per bene, e credo che lo riconoscono anche i miei avversari politici, quella scritta io non l'ho decifrata. Non, io si è visto nel video, io ho guardato in faccia la signora e non ho capito come. Cioè la guardava in faccia e non davanti sulla maglietta. Adesso. E il ministro Fornero. Cioè, la scritta è vergognosa, è evidente. Sì, che no, aspetta un attimo. Il ministro Fornero. Ieri, oggi è stata presentata la riforma del lavoro sotto forma di disegno di legge. Questo è certamente, secondo una parte della nuova maggioranza, una cosa positiva, in particolare il Partito Democratico. La Fornero, però, ieri aveva detto sull'articolo 18 nessuna marcia indietro. Assolutamente nessuna marcia indietro. Questo da parte del governo. Ed effettivamente nei contenuti non c'è alcuna marcia indietro, in particolare sui licenziamenti economici. Poi naturalmente bisognerà vedere i dettagli, eccetera, eccetera, eccetera. Prima di andare al primo ospite, Bersani, interveniamo, se no chiudiamo il Parlamento. Cioè non ci vuole il decreto legge, in realtà è stato in parte accontentato, però dice anche che bisogna intervenire, mentre il governo sostiene che non bisogna intervenire. Cioè che non bisogna fare marcia indietro e in realtà il testo dovrebbe rimanere così com'è, salvo intese, c'è scritto nel comunicato del governo stesso. Ovviamente il Parlamento è intervenuto, ha sempre modificato qualcosa e quindi io sono sereno nel fatto che si vorrà ragionare, no? perché se no chiudiamolo il Parlamento, non credo che sia questo. Adesso non so se i mercati si tranquillizzano se noi chiudiamo il Parlamento. Beh, una cosa strepitosa questa mattina ad Agorà, dove il segretario della CISL, a un certo punto, parlando degli impiegati pubblici, che come si sa sembrano essere esclusi, anche se poi in Italia nulla è mai certo, per l'incredibile babele di leggi e burocrazie varie, il segretario della CISL dice, nel nominare il ministro della funzione pubblica, dice Padron Griffi, sì, quello lì non mi ricordo come si chiama, Padron Griffi, stupendo, senti. Gli statali sono fuori, l'ha detto la Fornero, l'ha detto anche Padron Griffi, come si chiama? Padron Griffi, l'ho trovata meravigliosa, cioè in realtà non sa nemmeno come si chiama il ministro della funzione pubblica. Padroni, cioè pensava fosse un padrone. Padron Griffi. Pensava che Griffi fosse il nome della fabbrica e quindi lo chiamava da sindacalista. No? Padron Griffi. Padron Cruciani. Oddio, questa è stupenda. 800 24 00 24, questa è la Zanzara in diretta anche su TGCO 24 e con noi Paolo Gentiloni, esponente del Partito Democratico. Buonasera. In effetti Padron Griffi è spettacolare, non l'avevo sentito. Padron Griffi, io mi sono sbellicato quando l'ho sentito stamattina. Come Harry Potter, no? Non ce la facevo più, perché in realtà sembrava, naturalmente quasi non conosce il ministro della funzione pubblica, e allora diceva come si chiama quello lì, Padron Griffi, che secondo me non sapeva nemmeno che era il doppio cognome. Rocco. Senta Gentiloni, io non ho capito bene però una cosa, al di là poi dei dettagli che ci saranno, ma una volta si diceva non vogliamo morire democristiani, ecco. Si ricorda, no? Sì. Adesso lei vuole morire con la CGIL oppure no? La CGIL ha le sue idee, vorrei che il Partito Democratico ne avesse le sue, poi possono coincidere o non coincidere. In questo caso, secondo me, la CGIL sta facendo contro questa proposta di riforma una contestazione eccessiva, perché anche noi chiediamo la correzione di un pezzo che mi rendo conto è rilevante, però diciamo anche che questa riforma è una riforma in larghissima misura positiva. Dunque, per esempio, lo sciopero è affrettato, lo sciopero già proclamato, una cosa senza nemmeno conoscere il testo e senza nemmeno il passaggio parlamentare? No, non è affrettato. Io vorrei, ripeto, che il Partito Democratico ragionasse con la sua testa. Poi la CGIL ha tutto il diritto di fare lo sciopero e di contrapporsi, però un tempo c'era la cinghia di trasmissione, si diceva che i sindacati erano cinghia di trasmissione dei partiti, non è che adesso possiamo fare il contrario. E invece ha l'impressione che in quest'ultima fase spesso il Partito Democratico ha seguito le posizioni della CGIL, mi sembra di capire? Denuncio un rischio, adesso noi lunedì abbiamo anche la direzione del PD che capita abbastanza a fagiolo, diciamo, a fagiolo non lo so, però in un momento caldo. E vediamo lì, certo noi non possiamo, secondo me, accodarci a un'idea, mobilitiamo la piazza contro la riforma del mercato del lavoro, che è largamente sulle cose che il PD ha sostenuto in questi anni. Poi bisogna che teniamo una correzione in Parlamento su quel punto dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, come si dice. Spero che la otterremo. No, mi scusi, lei personalmente, sulla questione dei licenziamenti economici, che mi sembra quella più rilevante, è sulla posizione della Fornero o sulla posizione, che non si sa poi qual è ancora, di Bersani? Perché la Fornero dice, oggi l'ha ripetuto il governo, ci sarà solo il reintegro, cioè non ci sarà in ogni caso, a meno che non ci siano discriminazioni eccetera eccetera, il giudice al massimo potrà indennizzare e non reintegrare, cioè questa è la sostanza di quello che propone il governo. Lei, Paolo Gentiloni, è d'accordo su questa impostazione o no? Il governo dice due cose, lo stesso comunicato che lei stava citando dice che non ci devono essere abusi, poi, d'accordo? La frase successiva è impediremo che ci siano abusi. Questo vuol dire io tutto e niente. Voglio capire come impediscono che ci siano abusi. Qual è l'abuso? Che un'azienda, per licenziare una persona, si inventi delle motivazioni economiche che non ci sono. Sì. Noi sosteniamo che se si inventa delle motivazioni economiche che non ci sono, per licenziare una persona non è più un licenziamento di tipo economico, ma cambia categoria, diventa in qualche modo discriminatorio e quindi va trattato in modo diverso. Vabbè, questo però non, c'è bisogno di, vuol dire, da questo punto di vista non c'è bisogno di niente, allora siete già tutti d'accordo, c'è qualcosa in più evidentemente. No, tutti d'accordo, questa è una correzione significativa che al momento il governo dice di non voler fare, e che vedremo se in Parlamento riusciremo, come io penso e mi auguro, a introdurre. Se poi sarà invece lo stesso governo, consapevole che il rischio di abusi è molto forte, a trovare una formulazione, gliel'ha chiesto Bonanni, la CISL ieri, che almeno mette dei paletti per evitare abusi, vedremo se sarà soddisfacente, altrimenti proveremo in Parlamento. D'altra parte un disegno di legge è un disegno di legge, in Parlamento, lo ricordava prima Bersani, le modifiche ci sono. Sì, no. Ma tutto questo, non ci accodiamo per favore a questa campagna che dice arrivano milioni di licenziamenti, ma che li provoca la Fornero i licenziamenti, ma non scherziamo. Bisogna dire la CGL. No, infatti lei pensa, adesso poi abbiamo l'interruzione, che la Fornero ce la vedrebbe bene anche per il suo carattere riformista, la Fornero nel Partito Democratico, cioè sarebbe una persona che è al posto giusto nel Partito Democratico per quello che sta facendo, sì o no? Guardi, io credo che qualche anno fa, sì, nell'epoca in cui, per intenderci, Lelio Orlando era sindaco di Palermo, sì, la Fornero era consigliere comunale a Torino di quella lista Castellani, che era una specie di Partito Democratico in anticipo. Assolutamente, sì, sì, per questo io lo chiedo. Dunque la vedrebbe, la vedrebbe benissimo. Ma certamente, mi sembra una persona di grande valore, di cultura riformista. Abbiamo un dissenso su un punto, ma l'impianto della riforma è del partito, è una roba del Partito Democratico, è esattamente quello che proponete voi da tempo, o no? Tranne che sul punto di cui si parla, e si parla solo di quello, mentre invece sull'allargamento delle tutele, sì, su favorire il lavoro stabile rispetto a quello precario, sono le cose che predichiamo da 2 anni. Certo che è incredibile la vicenda Orlando a Palermo, caro Parenzo, più ci penso e più penso alla... al fatto che primarie organizzate su cui non c'è un'inchiesta seria, diciamo, almeno non sembra esserci un'inchiesta seria su brogli, non sono venute fuori cose clamorose, è semplicemente per una rivalità tra Orlando e il suo ex capogruppo, cioè l'ex capogruppo dell'Italia d'Ora del Comune di Palermo, tutto viene rimesso in gioco anche per delle questioni interne, palermitane, locali. Senta Gentiloni, a proposito di questo, poi torniamo sulla Fornero. È una pugnalata questa. Ma lei non pensa che ci sarà la settimana prossima addirittura una conferenza stampa tra Di Pietro e Orlando, che dunque Di Pietro sembra essere dalla parte di Orlando nel ritenere nulle sostanzialmente le primarie. Lei non pensa che bisogna ripensare al fatto di fare le primarie insieme anche agli altri partiti allargate e farle diventare, non so, delle primarie magari come è negli Stati Uniti, cioè delle primarie che riguardano il Partito Democratico, per esempio, e basta? Ma certo, se fossero regolate per legge, se fossero primarie di singoli partiti sarebbe meglio. Però innanzitutto partiamo dal presupposto che le primarie si fanno e i risultati si rispettano. Diciamo la verità, il Partito Democratico nelle primarie, nelle ultime 4, 5, 6 primarie importanti, ha quasi sempre perso, sì, il suo candidato principale. Che però non l'ha mai messo in discussione. Se ogni volta noi stavamo a dire che le primarie saltavano, invece mi sembra che anche, ho visto oggi un sondaggio su Genova che dà Marco Doria assolutamente favorito per vincere le elezioni, non era il candidato ufficiale del Partito Democratico, si sono fatte le primarie, amen. Dunque si può dire che Orlando non ci vuole sta, cioè qual è la cosa? Alla romana come lo direbbe lei? A Roma si dice non ci vuole sta, la cosa che mi rattrista sinceramente è che negli ultimi 25 anni credo che Orlando sia stato candidato sempre a sindaco di Palermo, forse ha saltato un turno e basta, no? Ferrandelli c'ha 30 anni di meno, beh, insomma, proviamo, no? Proviamo con Ferrandelli, questo non è un ragionamento sbagliato, caro Parenzi. Io non so quello che sia successo, però Gentiloni dall'esterno ha l'impressione che siano successe delle cose gravissime tale da giustificare questa reazione di Orlando, secondo lei? Ma io, a me non è sembrato, nel senso che ci siano delle polemiche quando si fanno delle primarie, per di più non organizzate col controllo della polizia, lo Stato, come elezioni ufficiali, capisco bene. Hanno contato e ricontato 2 volte, tra l'altro con rappresentanti di tutti i partiti che facevano la conta e la riconta, inclusi quelli dell'Italia dei Valori. Devo dire che un po' di addetti ai lavori palermitani dicevano da 3 mesi che Luca Orlando aveva in testa di candidarsi, Cioè aveva in mente già prima questa, se avesse vinto Ferrandelli aveva in mente già prima questa, diciamo, questa roba qui. Capisco quello che il cinico David Parenzo dice, e cioè che tutti cambiano idea. Però in 10 giorni mi sembra un po' presto. Senta Gentiloni, però tornando alla questione del diritto del lavoro, qualcuno dice beh, il lavoro non va monetizzato. Addirittura Fassina oggi cita alte autorità morali. Fassina, esponente responsabile economico, mi sembra. Però secondo me io ho l'impressione che sia un falso problema. Cioè, secondo lei è uno scandalo o no essere risarciti per un licenziamento? A me non pare uno scandalo. No, in generale. Assolutamente non è uno scandalo. Tant'è che nel famoso modello tedesco di cui tanto si parla, dimenticandosi ahimè che in Germania c'è la cogestione, ma comunque sì, nel modello tedesco spesso il giudice ha un'alternativa tra disporre il reintegro e l'indennizzo, quindi non è che l'indennizzo sia una roba che rende il lavoro meno degno, insomma. Il problema naturalmente è che se però un'azienda che vuole discriminare un lavoratore sostiene che è una ragione economica oggettiva e non è una discriminazione. Vabbè, quello certo, questo l'abbiamo. Il giudice deve sanzionare questa frode. Senta un attimo, ma quando parla Fassina, io non ho ben capito, rappresenta anche lei, per esempio, come responsabile economico del Partito Democratico, oppure lei effettivamente è uno dei tanti che parla a nome del Partito Democratico? Mi dica la verità su questo punto, però un po' di franchezza, perché io non riesco ancora a capire, perché dice delle cose talmente diverse da quelle che dice lei o altre persone. Adesso talmente è una mia esagerazione, magari comunque in alcuni casi nettamente diverse, che non capisco se parla a nome suo oppure no. Fassina parla a nome mio come io parlo a nome di Fassina. Siete sullo stesso piano, insomma. Siamo esponenti del Partito Democratico, naturalmente quando il Partito Democratico, nel suo gruppo parlamentare oppure nella sua, assumerà delle decisioni, siamo anche molto disciplinati, oltre a essere molto... Ma è responsabile economico oppure no? Cioè rappresenta da questo punto di vista la posizione sulle cose economiche del partito oppure è semplicemente... È responsabile economico, è ovvio che quando ci sono scelte fondamentali che riguardano l'economia, ma sarebbe la stessa cosa per il responsabile giustizia, non è che le prende responsabile economico, no? Quindi l'atteggiamento che noi avremo nei confronti di questa proposta di riforma sarà un atteggiamento, dovrà essere a mio avviso un atteggiamento di condivisione della sua impostazione e di forte richiesta di una correzione. Se qualcuno pensa che sulla base di questa proposta di riforma noi si debba prendere le distanze del governo, non mi pare che lo abbia detto nessuno. No, quello no. Sarebbe un errore. Senta, ma si può fare a meno della CGIL, secondo lei, in una riforma del genere? Si può approvare anche senza la CGIL? Perché una grande cosa del governo Monti è stata quella di dire, beh, insomma, però non è che si può discutere all'infinito, prima o poi una decisione va presa. Dunque, si può fare a meno della CGIL, secondo lei? Ma qui il governo Monti ha adottato un'altra strategia e forse anche una strategia giusta. Qui non è una riforma frutto di un accordo tra le parti sociali, sì, è una riforma che è frutto di un'iniziativa del governo sottoposta al Parlamento. Le parti sociali sono state consultate. Come è giusto che sia o no? Basta. Come è stragiusto che sia, e sono state messe a verbale le loro posizioni. Le loro posizioni hanno concorso poi alla proposta del governo, ma non è il classico accordo tra sindacati, Confindustria, alla presenza del governo. Ed è un grande passo avanti, secondo lei? Secondo me è un metodo assolutamente accettabile. Sarebbe naturalmente stato ancora più grave se ci fosse stato un accordo tra le parti sociali che escludeva il più grande sindacato, cioè la CGIL. È anche stato un modo, mi sembra, questo non fare accordi, per depotenziare la divisione che c'è stata. Senta, un'ultimissima cosa, ha ragione Baudo che ci vuole un Marchionne 10 secondi per la RAI o no? Ci vorrebbe uno tipo Marchionne per la RAI? Ma forse adesso non è che dobbiamo spostare la RAI a Detroit. Certamente. Eccoci di nuovo in diretta, caro Parenzo, alle 19.18 su Radio 24. Eccoci, 800 24 00 24. Parenzo in condizioni fisiche molto precarie oggi. Precarie. Lo aiuteremo, cari ascoltatori di Radio 24, cari telespettatori di TCCO 24. Lo aiuteremo, come sentite. Fai sentire un po' di tosse. Sembra di essere a Radio adesso non ruttare in diretta, non eruttare in diretta. No, è come stare a Radio Radicale. in condizioni molto precarie, dunque dobbiamo aiutarlo ad abbandonarci definitivamente, oppure dobbiamo accompagnarlo fuori, oppure aiutarlo a concludere la trasmissione in modo normale, in modo civile. E dunque direi di far partire, far entrare, come ogni giorno facciamo, il mondo di Rai 3, il dentro magico Medias, mondo di Rai 3 dentro Medias, con i titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Sul lavoro scelto il disegno di legge per i licenziamenti economici, il governo non cambia ma usa la formula salvo intese, congedo paternità obbligatorio. Napolitano, ora la parola passa alle Camere, non ci sarà una valanga di licenziamenti, il problema non è l'articolo 18 ma le fabbriche che chiudono. Bersani, in Parlamento modificare le norme sul reintegro, il PD dalla parte dei lavoratori, Alfano varare la riforma entro l'estate. Duro attacco della Fiat allo sciopero delle bisarche, il danno insostenibile, costretti a fermare Pomigliano e Cassino, ma i camionisti vanno avanti. Un indagato nell'inchiesta sul crack del San Raffaele di Milano parla di soldi portati dai costruttori baresi De Gennaro all'ex vicepresidente dell'istituto di Don Verzé. L'America si infiamma per il caso di Martin Trivon, il ragazzo nero ucciso da un vigilante in Florida. Obama, mio figlio sarebbe come lui, dice. In tutta Italia boom di ascolti per i TG che raccontano le notizie nel dialetto locale, qualcuno parla già di federalismo cattolico. Siamo qui, voglio leggervi, e per qualcuno che ci può vedere anche farvi vedere cosa pubblica un sito che fa riferimento al Partito dei Comunisti Italiani, la Federazione di Reggio Emilia, tanto per restare in tema, no? A proposito di magliette, a proposito di attacchi vergognosi, indecorosi al ministro Fornero, che andrebbe aiutata in questo caso, in questo lavoro molto duro, e invece viene attaccata in maniera assurda. Diciamo che si può, perché sennò adesso stai. No, ma senti questa dichiarazione di Di Pietro di qualche istante fa. La critico, ma si può criticare. Ma certo che si può criticare la riforma, non il ministro in quanto tale, soprattutto non utilizzando le parole. Non si deve mai personalizzare. No, ma al di là la personalità. No, ma la personalizzazione esiste sempre, perché il ministro la facciamo noi ogni sera la personalizzazione, dunque va benissimo. Il punto è un altro, quando Di Pietro parla di Vietnam, e quando Di Pietro che si è appena ripreso da un difficile intervento in ospedale, ma è tornato più guerreggiante di prima, più battagliero di prima, dice dal governo una dichiarazione di guerra guerreggiata ai lavoratori e ai giovani. Vabbè. Una dichiarazione di guerra guerreggiata. Dall'Italia dei Valori una ferma opposizione in aula. Ora non c'è più Gentiloni, però gli avrei chiesto, insomma, se queste parole sono compatibili con una futura alleanza tra il Partito Democratico e l'Italia dei Valori. In questa foto che voi, che siete alla radio e siete tanti per fortuna, non potete vedere, ma ve la leggo, c'è scritto Cimitero Fornero, con la ministra che piange, una foto della ministra che piange, un lavoro sicuro per l'eternità, tra virgolette, e poi varie tombe, Rossi Carlo, esperto muratore, cadde dall'impalcatura a 69 anni, due giorni prima di maturare la sua agognata pensione. Agoniata, in realtà hanno scritto agoniata, non agognata, ignoranti. 1950-2019, Biginello, una mano tremante di un chirurgo settantenne pone fine alla tua bella e radiosa vita. 1980-2016. Poi insomma eccetera eccetera, non so nemmeno se siano vere queste storie, probabilmente no, ma in ogni caso è la scritta che colpisce. Cimitero Fornero, PDC di Reggio Emilia, Cimitero Fornero. La Fornero dice vorrei andare a subito, amici del PDC di Reggio Emilia. Parla più forte, non si capisce niente. Amici del PDC di Reggio Emilia, togliete subito quel titolo Cimitero Fornero e continuate a condurre la vostra sbagliata battaglia contro le politiche della ministra. Ma togliete quella scritta! Allora, la Fornero, tra l'altro, ha detto ieri, vorrei andarla a spiegare la riforma delle assemblee sindacali, però forse è meglio di no. Questo dà un po' il clima, no? Cioè, una riforma che viene vissuta, anche se poi non è così, io per esempio la vorrei molto più drastica, viene vissuta come una sorta di attacco ai diritti fondamentali e dunque di attacco ai diritti basilari. E quando uno attacca i diritti basilari, poi c'è, quando uno la spiega in questo modo, poi c'è chi dice, ma insomma, se questa qua mi minaccia la vita, beh, io forse devo agire per fare qualcosa. Questo è il ragionamento di qualche pazzo. Sentiamo. assemblee sindacali, ma mi hanno detto che è meglio di no. Io mi sono offerta anche di andare a spiegarlo nelle assemblee sindacali, ma mi hanno detto che è meglio di no. Avete sentito, no? Formigoni? Signor Formigoni? Dov'è il signor Formigoni? Signor Formigoni? Non commento queste cose, noto soltanto che il programma in cui queste affermazioni vengono fatte non dovrebbe essere frequentato da gente seria. Hai sentito Formigoni? Eh beh. Trasmissione, com'è questa trasmissione? Formigoni, com'è questa trasmissione? Formigoni, com'è questa trasmissione? Non commento queste cose, noto soltanto che il programma in cui queste affermazioni vengono fatte non dovrebbe essere frequentato da gente seria. Formigoni, com'è questa trasmissione? Scher, com'è questa trasmissione? Formigoni? Un suo assessore, Romano La Russa, peraltro indagato, ha detto alla radio che essere gay è una malattia che si può tuttavia curare. Lei è d'accordo? Ho già detto oggi che non ritengo opportuno commentare delle dichiarazioni che sono state fatte all'interno di una trasmissione assolutamente scherzosa. Fra l'altro non ho potuto seguire la trasmissione, quindi non conosco lo sviluppo del suo pensiero. È noto che per parte mia sono sempre stato rispettoso delle scelte delle persone, rispettoso delle persone che meritano tutto il rispetto. Allora io non capisco una cosa, cioè secondo il signor Formigoni queste affermazioni sarebbero meno valide perché pronunciate qui, ma non sono state né smentite né nulla. Bisogna spiegare a Formigoni che primo La Russa è un suo assessore, l'ha nominato lui, non sì. Noi. Secondo, che il giorno dopo che l'ottimo La Russa ha detto quelle fregnacce da noi, le ha confermate, cioè ha detto io parlo politicamente scorretto e lo sanno tutti. E allora due parole, di che parliamo, Formi? Di che parliamo? Bravo, vedo che ti carichi, ti carichi. Quando attaccano la nostra trasmissione, signor direttorissimo, va il sangue, vado ai matti, senti, va il sangue al cervello anche sul paese. Senti signor Gentilini invece, l'ottimo Gentilini. Sceriffo, lo perdiamo prima della fine della trasmissione. Cari ascoltatori, lo perdiamo. Gentilini, la pacca sul culo. C'è stato un episodio a Treviso. Sembra di violenza nei confronti di una donna. Adesso non so bene i dettagli. È stato liquidato dal signor Gentilini, prosindaco, nonché sceriffo, lo sapete, no? Grande esponente, storico esponente della Lega Trevigiana. In questo modo, sentite. Una pacca sul sedere, sono pieni il nostro passato. Noi eravamo dei giovani e quando qualche collega si sculettava, si passava. Se le donne di San Zeno si sono sentite offese, a me non mi interessa assolutamente niente, perché la verità va detta a qualsiasi costo. A proposito di... Ma quale verità? Non lo so. A proposito di culo, ci vuole anche il signor Brignano. Anche lui. No, Brignano perché parla ancora della vicenda Giovanardi e di altre cose, scilipoti vari, gay, omosessuali. Brignano, sentite. Il senatore Giovanardi, persona veramente garbata, attenta, anche illuminata, parlando dell'omosessualità, ha detto che quella certa parte del corpo, certa parte che noi per comodità in televisione chiameremo culo, è fatta per espellere, non per ricevere. Quindi mai più supposte. E poi io dico, ma come? Come onorevole? Cioè senatore, onorevole è troppo, senatore, ma come? Lo dice proprio lei, a noi, che lei insieme ai suoi colleghi tutti i giorni non fate altro che mettercelo proprio in quella parte del corpo che per comodità noi chiameremo culo. Ma dico, è un controsenso, no? È il Brignano di questi ultimi tempi, Pasdaran, molto anticasta. In realtà poi quella frase là sul di dietro eccetera, sulle funzioni, non è di Giovanardi, almeno non in questi ultimi mesi, bensì del nostro amico Scili. Benissimo, 800240024, nella bozza del governo sarà obbligatorio motivare il licenziamento. Beh sì, naturalmente finché uno basta mettere difficoltà economiche, in teoria poi si può giustificare di tutto, eh. Comunque andremo nei dettagli. Hai visto a Roma cosa? Che ho visto? No, di questi scontri terribili a Casalbertone tra i centri sociali e Casa Pound. Ma io non lo so, intanto Antonio da Milano, ti interessi di queste cose marginali? Antonio da Milano. Antonio da Milano, Antonio. Hanno un casco in testa e delle mazze in mano. Vabbè, ma c'è gente che non ha nulla da fare. Amici di Casa Pound. Antonio, vabbè, anche gli altri non sono angioletti, Antonio da Milano, Antonio. Branco di liberale, proprio così, no? Vada. Buonasera a lei e a tutti i suoi ospiti. Sì. Senta, prendo spunto per il discorso di, sì, della maglietta per evidenziare che il problema non è tanto rivolto al ministro Fornero, non naturalmente quel tipo di messaggio, per l'amor del cielo, ma vi sono è causato praticamente dalla politica, esattamente dal PD. Perché? No, però mi scusi, non andiamo, andiamo un po' al sodo, caro Antonio, andiamo al sodo. Sì, che vogliamo dire? Che vogliamo dire? Non ho ancora capito. No, il sodo è molto semplice. Ecco. Il Partito Democratico fino, sì, a qualche mese fa, sì, teneva una posizione, sì, pro dipendenti, pro lavoratori, contro, sì, chi parlava del lavoro. Siamo troppo lunghi, abbiamo la borsa. Mi dispiace Antonio, o lei fa un discorso che abbia una, cioè, altrimenti non è che possiamo stare al convegno sul passato del Partito Democratico, eh. Siamo qui in diretta alla Zanzara, Radio 24, 800 24 00 24, caro Parenzo, eh. Cioè tu sei lì. Tu io sono qua. Sei a Roma anche malato, come si sente? Però resisti come un leone, eh. Resisti come un leone. Taglio di cronaca. Che è successo? Che ti succede? No, un dettaglio di cronaca. Di Pietro, detto. Voglio sentire Di Pietro oggi, perché Di Pietro è battagliere oltre che la voce del giorno, che è quella di Gentilini. E Di Pietro, articolo 18, arroganza del padrone verso i lavoratori, ritorno al feudalesimo che ci azzecca con l'omino, articolo 18, l'ombrello uno lo prende, uno lo metto, scatenato, cioè è tornato da una piccola malattia, per carità, è più scatenato di prima, evidentemente alcune cose fanno bene, per carità, non voglio dire niente, non cominciate ad attaccarmi, io voglio bene a tutti, più o meno. Beh, insomma. Di Pietro, articolo 18, arroganza. Detta grossa questa, arroganza del padrone verso i lavoratori. C'è ancora tempo, signor Presidente del Consiglio, di rendersi conto che questa vicenda dell'articolo 18 non c'entra niente con lo sviluppo economico del Paese, è solo un atto di arroganza del padrone del vapore di una volta che vuole umiliare la classe operaia. Umiliare la classe operaia, io mi stupisco ancora come si utilizzino certi termini, certi... Oggi nel 2012, come si utilizzino certe cose, vado ai matti ogni tanto, il ritorno al feudalesimo, io capisco la campagna elettorale, il tentativo di prendere i voti, la vicinanza ultimamente dell'Italia dei Valori, però io ma la durezza e l'asprezza del dibattito politico, però quello voglio dire, non è che negli altri, non è che in America democratici e Cofferati, dicono, Cofferati. Ah no, lei è un vero. Ma non c'è su alcune cose. Cofferati, Monti farà come Berlusconi. Ma senti, Cofferati, televisivi tra i candidati. Esponente del Partito Democratico, esponente del Partito Democratico. Cofferati, Monti farà come Berlusconi, europarlamentare. Monti, nella migliore delle ipotesi, farà quello che fece Berlusconi 10 anni fa. Berlusconi discusse con le parti sociali, registrò il dissenso alla cancellazione dell'articolo 18 della CGIL. E presentò in Parlamento una legge delega. Ma cosa c'è di male? Cioè, lo dice come una cosa, come la fine del mondo, ma è una cosa normalissima, cioè una cosa normalissima. Uno consulta. Perché evidentemente la conseguenza di quello cosa fu? Fu poi la sua grande ascesa, certo, soprattutto grande la sua grande ascesa. Bonanni, questo. Padron Griffi e poi Gentilini, due audio fondamentali. Padron Frodo, non Padron Griffi. Padron Frodo, in realtà era Padron Frodo, sì. Gli statali sono fuori, l'ha detto la Fornero, l'ha detto anche Padron Griffi, come si chiama? Padron Griffi, si chiama Padron Griffi. Padron Griffi. Padron Griffi, Gentilini e la pacca sul culo. Intanto qualcuno dice che effettivamente presentare il disegno di legge, che sembra la cosa più democratica del mondo, in realtà è un grande rischio, perché poi il disegno di legge sul lavoro entra, magari rischia di entrare in un certo modo e di essere poi massacrato. Quando uno dice la parola al Parlamento, perché è importante il passaggio parlamentare, in realtà che cosa vuol dire dietro questa frase di circostanza, di prammatica? Che però voglio far passare le cose mie in Parlamento, così è fondamentale, però o si cambia il sistema. ma che è fondamentale, vale per tutto. Sì, vabbè, però ci sono anche i decreti legge, per esempio, che se sì, c'è la crisi economica urgente, insegna, se qualcuno dice, lei mi insegna, però poi devono essere trasformati in legge, per cui capito, il passaggio parlamentare ci deve essere. Mettetela via un passaggio, ma io sono a favore della riforma, ma te la devi mettere via un passaggio parlamentare, ci deve comunque essere. Sì, non eravamo di fretta la crisi, eccetera, ma siamo eccetera. Siamo di frettissima, allora, fate presto, su, come dice, ecco, fate il presto. Mio sole 24. Fate presto, non con i disegni di legge che vengono stravolti in Parlamento, su, dai. No, ho capito, ma i governi tecnici per definizione presentano decreti immediati, è così, ma dovrebbe essere così. Sì, poi capisco la grande mediazione. Un passaggio parlamentare ci vuole sempre, sì, quindi sì. O le forze politiche trovano un accordo, oppure Gentilini. Una pacca sul sedere, sono pieni il nostro passato. Noi eravamo dei giovani e quando qualche collega si sculettava, si passava. Se le donne di San Zeno si sono sentite offese, a me non mi interessa assolutamente niente, perché la verità va detta a qualsiasi costo. E qual è la verità, poi? Non si capisce. Intanto è, come si direbbe al bar. È con noi un amico, caro Parenzo, tu non lo puoi vedere. Come si direbbe al bar? Senza che nessuno si offenda. Come si direbbe al bar? Senza che nessuno si offenda, non è rivolto a Gentilini, ma al bar si direbbe che è un'espressione da vecchio porco. Ah, questa di no, Gentilini. Io non è riferito a lui, che nessuno si offenda. Ma se un signore qualsiasi di 80 anni fa una battuta simile al bar, come lo chiamano gli altri, secondo te? Sì, vabbè, un vecchio porco, vabbè, ma insomma si riferisce a un fatto accaduto a Treviso che lui trasforma in una paccata sul culo, invece pare ci sia stata violenza. Sì, ma anche quella è un reale, non è che tu vedi una che passa. Sì, vabbè, però non è adesso, lì. Ho capito, ma non è adesso, non la prendo. Perché insomma. La verità va detta a qualsiasi costo. Hai capito? Ma con noi Tiziano Motti, europarlamentare dell'UDC, il grande vincitore del nostro concorso Canoro. Buonasera. Buonasera. Come voi. Sta? Come bene, sta? Bene. E facciamo sentire la grandissima performance. Ma che è ha dato. Studio il signor Motti. E tu non lo puoi vedere, non sono lo puoi qua, toccare, non lo puoi toccare. Niente, stasera. Niente. Maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi. Beh, cari ascoltatori, questo non è Vasco Rossi, anche se gli assomiglia molto. Il grande vincitore del nostro concorso Canoro. Ci abbiamo messo un po' ad annunciarvelo, devo dirvi la verità, ma ci abbiamo messo un po' semplicemente perché volevamo qui presente Tiziano Motti. Io l'avevo pronosticato sin dall'inizio. Qui non c'è trucco, non c'è inganno, però, caro Parenzo, perché abbiamo la stessa tempistica del governo tecnico, diciamo. Esatto, ci mettiamo un po' a certificarlo, però lo vogliamo annunciare. Politicanti è stato vinto quest'anno da Tiziano Motti, e non è che l'ha deciso Cruciani, l'ha deciso Parenzo, l'hanno deciso i tantissimi ascoltatori, anche con un po' di... Non l'ha deciso neanche il signor Tamburini né il signor Giordano. No, l'hanno deciso due persone in particolare di cui ci siamo fidati, Francesco Renga e Iva Zanicchi, in questo modo. Signor Renga, che nostalgia. Oh, sono toccato di Motti, guarda, lui è voto cantante. Io 11 a Motti. No, vabbè, dai, voto 11. Ma non c'è 11, 10. 10. Francesco, tu che sei più un po' poco personale, ma il tempo che ha, come dire, dedicato alla cosa, io anche qui un 8 e mezzo glielo do. 8 e mezzo. Allora, ultimo. Lo senti che sembra Vasco Rossi. Beh, insomma, devo dire la verità. Ringrazio Lazzanicchi e Renga, che sono gli artefici di questa mezzo, vittoria. Non so fino a che punto meritato. Beh, Lazzanicchi 11 ha detto. Beh, Lazzanicchi, però, vabbè, Lazzanicchi ha esagerato. Però Renga, che è un esperto, un tecnico del mestiere, 8 e mezzo, può essere contento, anche ma orgoglioso del buon giustamente di ha detto un po' impersonale, perché poi tutto sommato uno arriva qui e fa e scimmiotta Vasco, perché lei dice voce simile. No, no, è uguale. Vasco non è si uguale. Offende. Insomma. No, ma lei ci ha mai parlato con il signor Vasco Rossi? Certo, l'ho incontrato casualmente e ci sono appiccicato, non lo lasciavo più andare via, gli ho parlato, gli ho spiegato della mia campagna elettorale cantando le sue canzoni. Ma quello canzoni. Prima, durante la campagna elettorale? No, dopo. Ah, dopo. Quest'estate, prima dei concerti di quest'estate. Sì, sì. Il signor Vasco Rossi, come lo vedrebbe nell'UDC? Beh, credo che sia molto distante dalle posizioni. Sì, un pochino a disagio, credo, ma un po' per la sua storia. Ma però a disagio Casini o il signor Vasco Rossi, ad esempio? No, secondo me, dico la verità. Dove? Guarda. Non ho capito, sarebbe a disagio. Parenzo, non ho capito bene. No, lui dice, Motti dice, sarebbe un po' a disagio. Beh, certo, no, Vasco Rossi nell'UDC mi sembra una cosa che non sta... Sarebbe più a disagio l'UDC ad avere Vasco Rossi. No, però allora, lei prima, Parenzo, ha detto a disagio Casini. Io sono convinto che Pier Ferdinando Casini non sarebbe a disagio, perché con non Vasco è stato Rossi. A disagio con me, non può essere a disagio neanche con Vasco. Allora, questa è una notizia, Comunque Vasco quando mi ha incontrato dopo un'ora mi ha detto... Basta, non si capisce che te sei un parlamentare e parli e basta, e quindi poi è scappato via. Ma dopo un'ora in che senso? Nel senso che lei l'ha rincorso da lei? No, l'ho bloccato in un angolo e gli ho raccontato la mia vita praticamente. Lui mi guardava un po' stralunato, cercava le vie di fuga e non le trovava. Però. Ah, per quello poi ha dovuto prendere gli psicofarmaci, poverino. No, non trattatelo così. E da quel momento in poi è impazzito, allora. È iniziato dall'alto impazzimento. Probabilmente, esatto, gli ho fatto un effetto negativo, mi spiace. Che non vorrei impazzimento esistere. Naturalmente è un termine. No, Vasco è un grande, scherzoso. Non toccatemi Vasco. Ma adesso è vero che ha letto che abita, ha preso un'intera suite a Bologna in un albergo, no? All'ultimo piano per isolarsi. Informato. Ma lei deve seguire sempre la vita. Sapevo di Vasco che Rossi. Abitava in una casa adiacente a un bosco. Una cosa le ha dato le sue canzoni, gli ha dato le sue canzoni qualche po'. Gli ha mandato le no, sue. No, gli ho chiesto il permesso di fare la sua cover. E lui ha detto: no, ma è per beneficenza, a parte che fai quello che vuoi, insomma, però mi sembra una cosa molto carina. Quindi... Ma non ha il coraggio di fargli ascoltare delle cose, di mandargli MP3, eccetera. No, gli ho mandato, ma è ovvio che gli ho mandato. Ah, gli ha mandato, certo, però non sa se ascolta. Però non è che poi sto a cercare il suo riscontro. Anche perché ci saranno vari imitatori in giro. Sì, poi io non è che lo voglio neanche imitare. Imitatori, insomma. Voglio dire, mi piace cantare le sue canzoni da solo normalmente, perché hanno accompagnato la mia adolescenza e quindi mi ci trovo molto bene. Allora, voglio una vita spericolata. Se dice a un politico che fra poco chiameremo, a un politico che chiameremo, chiamiamolo. Intanto voglio sentire Donato da Reggio Emilia, che è la città di Motti, tra l'altro, però casualmente chiama Donato. Buonasera. Sì, salve, buonasera. Più di Motti che la città del primo tricolore. Sì, no, ma naturalmente anche Motti sarà d'accordo, guardi, non concordo, si preoccupi. Concordo. No, niente, io chiamavo visto che ha presentato così in modo, a mio avviso, scorretto. Io sono l'ideatore di quella foto che ha detto Cimitero Fornero, no? E l'ha presentata in quel modo. No, scusi un attimo, lei è il fotografo e fotografo, tra l'altro c'è un filmato. No, sono chi l'ha creata, chi l'ha montata graficamente, diciamo. Cioè, in che senso, scusi, non ho capito. Quello che ha ideato la foto, su una foto vera che tra l'altro proprio per rispetto dei morti è un cimitero di animali, ritoccata con tutte quelle scritte in aggiunte. Ma qui c'è un filmato, dunque di che stiamo parlando? Scusi Donato, c'è un filmato su quella foto? Secondo me lei sta prendendo un grande graffio, non esistono filmati. Ma come non esiste? Abbiamo visto un filmato l'altro giorno diffuso dal video da Repubblica all'inizio. Ma sono due questioni diverse. Una questione sì, ma nel filmato che abbiamo visto una parla di una maglietta dove c'è scritto praticamente Fornero in cimitero, sì, e l'altra è una foto dove c'è scritto Cimitero Fornero. Ah, Cimitero Fornero, sì. Quello di Reggio Emilia, scusi, sì, quello di Reggio Emilia, sì. Ah, ecco, perfetto. Allora, l'altro, è un falso? È un falso? No, le dico un'altra cosa. No, mi dica se è un falso o no. Controlla la terza lapide sì, ma infatti sulla destra della foto, sì. Tra l'altro vede il mio nominativo, perché proprio in quanto ironica la foto... Cioè, lei si è inventato questa cosa? Si è inventato questa cosa? Certo, perché volevamo sottolineare invece una questione grave. Non ho capito se lei... Non ho capito, lei è un esponente del Partito dei Comunisti Italiani di Reggio Emilia, sì o no? Sì, sono il segretario del aspetti un attimo, abbiamo 30 secondi o no? No, abbiamo 30 secondi di pubblicità, poi Leo Luca Orlando è con noi, 30 secondi. Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte. La vita spericolata sicuramente la vuole Leo Luca Orlando, perché si è messo in una situazione insomma un po' spericolata. Orlando, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Ma andiamo bene, stiamo cercando di dare un'amministrazione che possa affrontare i difficili problemi di una città che è stata ridotta in dissesto finanziario. Però lei ascolti cosa diceva qualche giorno fa qui a Radio 24 dal signor Alessandro Mitanto, lo sa già insomma, perché la principale critica che le viene fatta, devo dire, secondo me è una critica a cui non si può rispondere se non, che ne so, sono cambiate delle cose fondamentali. Comunque sentiamo quello che diceva il 12 marzo, non so, una cosa del genere, sentiamo. Leo Orlando ha detto in lingua aramaica, ma anche in lingua fenicia, scelga lei quella lingua preferisce fra le due più antiche alfabeti del mondo, che non era candidato, non si considerava candidato e non sarà candidato. Il tema non riguarda Luca Orlando, riguarda la qualità etica di una competizione elettorale. Voglio una vita maleducata. No, maleducata non c'entra, però un po' spericolata sì. Orlando, mi scusi, lei diceva che nemmeno in in aramaico, in lingua... Lei se aramaico o fenicio, O fenicio. L'alfabeto più antico. E poi si è candidato, come lo spiega? Il punto di partenza qual era? Quando io parlavo di un centrosinistra unito, in nome dell'unità del centrosinistra non mi consideravo in nessun modo candidato, non volevo essere il candidato che fosse un ostacolo all'unità del centrosinistra e quindi facevo un passo di lato, un passo indietro, scelga lei dove, purché il centrosinistra fosse unito. Ma invece adesso non è unito, non è unito lo stesso. Non è affatto unito perché si sono difese delle primarie che sono primarie inquinate. Io ho un grande rispetto per le primarie di Genova, di Milano, di Torino. Ma chi lo dice che sono inquinate, lei o la magistratura, scusi? No, lo dicono i garanti che hanno certificato, hanno annullato un seggio dello ZEN. Un seggio, però poi i voti di vantaggio ci sono per Ferrandelli. Hanno poi certificato che non si sono svolte secondo la correttezza e l'essenza delle primarie. Questo fa sì che bisognava fare come si è fatto a Napoli, anche a Napoli, guarda caso, primarie organizzate dal PD sono finite, diciamo... Sì, ma quelle le ha annullate lo stesso Partito Democratico poi, tra l'altro. E noi chiedevamo al Partito Democratico di concorrere con noi ad non tener conto delle primarie e insieme trovare un candidato. Ma evidentemente per il Partito Democratico... Scusi Orlando, evidentemente per il Partito Democratico queste primarie sono corrette. Nonostante quello che lei dice, per il Partito Democratico e per altri, non solo per il Partito Democratico, queste primarie sono corrette. Guardi, basterebbe pensare che in nessun caso le primarie di Genova, di Torino o di Milano hanno visto decine di interventi di Digos e Carabinieri durante lo svolgimento. Sono ben due inchieste dell'autorità giudiziaria, una che riguarda il seggio dello ZEN e l'altra che riguarda il seggio di Piazza Indipendenza. Cioè, perché il PD dice che sono regolari? Ma perché il Partito Democratico pretende di costruire l'unità su primarie che sono eticamente inaccettabili. Il problema non è perché eticamente inaccettabili? Non è che lo può decidere lei se sono eticamente inaccettabili. Scusi, glielo dico, Orlando. Lei pensa che sia normale che in primarie del PD e del centrosinistra ci possano essere persone che raccolgono a casa i certificati elettorali? Lei pensa che sia normale che ci sia il controllo del voto con persone davanti ai seggi che davano soldi ad coloro che... Ho capito, ma tutto questo deve essere certificato da qualcuno, non è stato certificato da nessuno. È stato certificato da denunce che sono state presentate. Ma le denunce non sono sentenze. Non sono sentenze, ma pongono un problema etico. Ma allora, e la mia opinione è che l'etica non può aspettare l'esito dei processi, dei processi penali. Scusi un attimo, allora ammettiamo che abbia ragione. Il PD che cos'è? Fuorilegge? Il PD è connivente. Cioè il PD è connivente con l'inquinamento? Il PD dopo Napoli, a Palermo, copre ancora una volta delle primarie che sono inaccettabili ed inquinate. Se il PD pretende di costruire un'unità di centrosinistra o pretende di costruire la foto di Vasto portandosi con sé un governatore come fa in Sicilia, un governatore di centrodestra eletto col centrodestra inquisito per mafia, perché questo no, però è scusi, politico, ma non è Lombardo, ha un suo candidato in nome del... Lombardo ha un suo candidato, non è Ferrandelli il candidato di Lombardo. Guardi, allora, siccome noi stiamo evidentemente parlando di cose che si conoscono o che non si conoscono, è notorio che notorio che gli esponenti del Partito Democratico che sostengono dall'inizio, da settembre, Cracolici e Lumia. Dall'altra parte è notorio che decine e decine di esponenti della destra si sono recati a votare, anche assessori della giunta a Marata. Ma questo ognuno hanno partecipato al voto e hanno partecipato al voto di centro-sinistra. Ok, ma sono singole persone, cioè non, se anche fosse vero, sono singole persone. Posso permettere di ripetere le cose che non ho detto io, che non ero candidato, ma che ha detto la Borsellino, un mercato delle vacche. Mi posso permettere di ricordare che la Borsellino ha detto, e non io, l'impressione è che siccome non abbiamo l'etica, che l'etica viene prima di qualunque persona. Però l'impressione, scusi Orlando, è che siccome non ha vinto il candidato che voleva lei e ha vinto il candidato che era un suo alleato, anzi era dentro il suo partito e poi è uscito. Mi scusi. La Borsellino ha chiesto che si applicassero i criteri che sono applicati allo ZEN anche nell'altro seggio. Se si fossero applicati gli stessi criteri all'altro seggio, in base al ragionamento dei garanti bisognava annullare anche l'altro seggio, e in base all'annullamento dell'altro seggio sarebbe stata la Borsellino la candidata vincente. Scusi, allora, e chi ha truccato? Chi è che ha truccato? Scusi, chi è che non ha voluto fare questo? Il Partito Democratico? Chi è che non l'ha voluto fare? Il Partito Democratico si è rifiutato di tener conto che i risultati delle primarie erano assolutamente... Dunque sono degli imbroglioni anche loro? No. E che ne so? Scelga lei la motivo. E no, lo dica lei, le imbroglioni, mi sembra. Sicuramente hanno preteso di imporre in nome dell'unità del centro-sinistra un candidato abusivo. Candidato abusivo, vabbè, scusi un attimo, ma io ho l'impressione che la questione sia anche personale tra lei e Ferrandelli. Cioè, Ferrandelli, no, guardi, Ferrandelli ha un percorso virtuoso, ha iniziato con un percorso virtuoso. E adesso? Poi, purtroppo, forse per la giovane età, forse per l'esperienza, forse per la voglia di arrivare saltando qualche fosso, si è consegnato nelle mani di quella parte del PD che sostiene Lombardo. Senta, scusi una cosa. No, però Orlando, scusi un attimo, lei aveva detto che non si candidava, adesso non mi può dire che sono passate delle cose in unità del centro-finista, è incomprensibile. Per la gente gli audio lo testimoniano. Lei ha detto: lo dico in aramaico, in fenicio non mi candido. Dopo dieci giorni. Ma lo dico con riferimento alla coalizione di centrosinistra, perché per me l'unità del centrosinistra sulla base di primarie corrette viene prima della mia candidatura. Grazie. Giornale radio. Penso di andare per la mia strada di candidarmi. Ma lui non riconosce, no, è diverso. Lui non riconosce le primarie, dice che sono state un imbroglio. Delle e dunque dice in sostanza che il PD è un partito di imbroglioni. Però lo deve dire fino in fondo. Ma no, l'ha praticamente detto, diciamo la verità. Fondo deve dire che hanno imbrogliato e quindi hanno imposto alla fine, hanno falsato. Questo deve dire fino in fondo. No. Intanto abbiamo qui sempre il nostro meraviglioso vincitore. Fra poco gli consegnerò i premi, che sono premi in denaro, premi altissimi in denaro. Premi in denaro. Saranno ridistribuiti. Distribuiti in beneficenza perché signor Motti. Ma che denaro? Non abbiamo una lira, dicono sempre qui. Insomma, è una metà del tuo stipendio. Non hai capito ancora qual è la questione. Faccio un annuncio: per tre mesi, metà dello stipendio di Radio 24 che viene dato a Parenzo verrà donato tramite Tiziano Motti, che lo riceve, con un assegno in beneficenza. Gioia questa cosa. Mi ha proprio cambiato la giornata. Credo che mi impiccherò col filo della cornetta del telefono. È stata una mia idea, tra l'altro. È stata un'idea dell'onorevole Motti, qui presente. La politica al servizio del cittadino. Esatto. Contro la casta di certi giornalisti. Esatto. Siccome non sapevamo come dare un premio in denaro, essendo noi abbastanza, come dire, tirati e con le pezze al. Scusa, Parenzo, dillo, le pezze al. No, con le pezze, sai, c'è una. Nel sedere, ho capito, le pezze nel sedere. Allora abbiamo a un certo punto pensato di fare così, ma non so, io credo che tu sia d'accordo, non dovete, per beneficenza si può fare anche questo. Ti ringrazio di non avermi consultato, di averlo detto in diretta, così va benissimo. Sì. Cioè, metà dello stipendio, annuncio ufficiale anche per gli amministratori di Radio 24, metà dello stipendio di Parenzo nei prossimi tre mesi. Beh. Dunque l'annuncio anche per il commercialista, il dottor Parenzo. No, perché? Detto, verranno devoluti, dunque, decurtati dalla metà del 50% e trasferiti nel conto personale di Tiziano Motti, europarlamentare, il quale a sua volta, precisiamo naturalmente, li trasferirà nel conto di una onlus. Ma chi se ne frega della onlus? Ma no, della onlus. Ma scusa, ma fa beneficenza sempre anche. Ma la beneficenza la faccio con i soldi suoi, non con i soldi miei. Ma lui non c'entra. Io l'ho già fatto. L'ha già fatta. Anche tu. Sei contro la beneficenza. Ma io. Vergognati, sei contro la beneficenza. Decido io e faccio un appello al signor Squinzi. Tra l'altro, ecco, io voglio dire solo questo perché. Non entro nelle questioni. Come al solito, comincia. Allora, io sono stato sempre un sostenitore di Squinzi. Sì. E lo sanno tutti. Ma veramente non mi risulta. Mentre Cruciani sostiene sul Bomba 6 e l'ha detto ad alta voce. Io voglio ricordare una cosa. Una volta c'era un'imitazione fantastica di Parenzo. Un'imitazione fantastica di Parenzo di Beppe Grilli su Bomba 6. Vuoi rifarla? Adesso ha perso Bomba 6, la possiamo fare, dai. Ha perso, la possiamo fare. Da vigliacchi lo possiamo fare. Sì, essendo noi notoriamente dei vigliacchi, la possiamo fare. Era un'imitazione di Beppe Grillo che a un certo punto non andò più di moda e tu la facevi e dicevi anche qualcosa su Bomba 6. Ma che cosa vuole? Siete un branco di cretini, vaffanculo Cruciani. E poi avete questo capo, il capo della Confindustria, questo che siede lì, che si chiama Bomba 6, con quel nome Bomba 6. Sicuramente non è un pacifista quell'uomo lì, ve lo dico io, vaffanculo. Era così. Poi, no, giusto per cronaca, lo dico ai nostri editori, alla Zanzara, signor Cruciani, giustamente, per carità, con le sue motivazioni, che teneva per Bomba 6. Ma non è vero! Ho sempre invece detto che Squinzi. Mi dispiaceva così, Cruciani, una volta si dice, una volta vabbè, si perde. Ma non è vero! Non ti preoccupare, va bene. D'accordo, diciamo così. Io tenevo per Bomba 6 e tu per Squinzi, va bene, così siamo pari e patta. Perché la verità va detta a qualsiasi costo. Hai capito? Questo era sempre gentilino. Va bene, io direi però, prima di consegnare i premi, un premio l'abbiamo già consegnato a Tiziano Motti, UDC europarlamentare, che è con noi e lo ringraziamo questa sera, finalmente incoronato vincitore di Politicanti. Beh, un'esibizione ci vuole, un'esibizione prima di un test, il solito test che sottoponiamo a Tiziano Motti, l'esibizione naturalmente su E di Vasco Rossi. Canta l'europarlamentare dell'UDC Tiziano Motti, base. Sì, io questa non l'ho mai cantata neanche sotto la doccia. Lo dico perché... Vabbè, è la premessa, però abbiamo fatto partire la base, vada. Più o meno faceva così. Fa così. E vuoi da bere? Vieni qui. Per me, te lo dico sottovoce, amo te come non ho fatto in fondo con nessuna. Restare qui un secondo e se hai bisogno e non mi trovi, cercami in un sogno, amo te. Quella che non chiede mai, non se la prende, se poi non l'ascolto. Sei un piccolo fiore per me, e l'odore che hai mi ricorda qualcosa, vabbè. Sono fedele mai, forse lo so. Ma basta, dai, esperimento bravo, serale. Grandissimo, così. Applausi. Ma no, dai, era anche una tonalità che non mi si addiceva. Giusto per giocare insieme. No, beh, ma questo no, è chiaro. Davvero bravissimo, veramente. Beh, giusto vincitore di Politicanti e direi... Perché lei scrive le leggi come canta... Vabbè, ma che ne sai, magari è un bravo legislatore, non lo sappiamo perché le cose al Parlamento europeo, sai, attengono al mondo del mistero spesso. E... Però. Toglietemi la soddisfazione di dire che a neanche un anno dalla mia elezione, visto sì, se no la gente mi sente solo come emulo di Vasco, ma lei è principalmente è passata una mia dichiarazione scritta ed è diventata una risoluzione ufficiale del Parlamento europeo. Però questa è stata molto particolare perché approvata in solo due mesi con 40 deputati eurodeputati che hanno tolto la firma dopo aver firmato perché temevano che mettesse a rischio la privacy, perché il concetto è quello sul di controllo del, no, è quello di permettere alle forze dell'ordine di avere migliore accesso ai dati di coloro che utilizzano i social network per adescare i bambini. E quindi, calcolando che oggi l'adescamento sessuale è diventato, grazie a una direttiva del Parlamento europeo da novembre, reato, credo di aver dato un contributo di cui sono molto fiero. Beh, insomma, al di là delle canzoni, non è solo Vasco Rossi, no? E cerca di dare. No, ma credo di interpretare il pensiero di Cruciani. Sì. Se le dico Motti di leggere interamente da qui alle 21 il testo della mozione, credo di interpretare. Adesso non lo vedo in faccia, ma lo conosco, è sensibile il suo Cruciani. Sembra ruvido, ma legga anche gli atti, tutti gli atti del convegno. Secondo me potrebbe essere una cosa interessante. Sì, una cosa fondamentale. No, però adesso non sminuiamo Continuiamo con il nostro solito sarcasmo queste cose che sono giuste. Noi naturalmente appoggiamo in pieno, però c'è quanto sei vicino a Casini, andati, ragazzi, test decisivo. Mi mancava il test del per mese Motti, perché sai l'UDC è un po' una galassia indistinta dove c'è tutto, non dico il contrario di tutto, però si va dalla signora Binetti per esempio alla signora Carlucci, no? Per cui l'UDC è qualcosa di un magma, come dire, no? Anche il terzo polo peraltro si va dalle posizioni di, che ne so, di Granata a quelle una domanda da fare, signor Motti. Eccolo. Fai una domanda dopo. Intanto, questa è fondamentale. Quanto sei vicino a Casini? Questo sono cinque piccolissime domande. Allora, ma chi dà la risposta dopo? Lei, noi diamo la risposta. Okay. Caltagirone, il più grande imprenditore italiano, sì o no? Non so se è il più grande, ma è un grande imprenditore. Il più grande, sì o no? Ma che ne so degli altri, voglio dire, ce ne saranno alcuni. Comunque un no? grande imprenditore, certamente un grande imprenditore, importante, certo. È un importante, grande costruttore. Cosa devo dire, scusate? No, che ne so, no, il più grande. Non so se, non so quanto si sia fatto da solo, quanto abbia ereditato parte, voglio dire, del patrimonio che continua a gestire con grande oculatezza e maestria, ma è sicuramente un grande imprenditore. Grande oculatezza e maestria, questa cosa è molto casiniana, questa cosa. La foto di Casini, è vero che è il nuovo Sol dell'Avvenire, questa foto che ha pubblicato. No? Il nuovo simbolo, una foto meravigliosa, stupenda. Ha fatto benissimo a fare quella foto, no? Che foto? La foto quella con i tre segretari. Ah, e qui qua. E qui qua, sì. Ma io non penso che lui si sia messo lì. Facciamo la foto qui qua, ragazzi. Lui ha fatto una foto. Dire, se ci vengono a fotografare, poi ci chiediamo se abbiamo fatto è bene. È stato giusto farlo o no? Ha fatto una foto. Ha fatto benissimo a farla. E che cosa ha fatto di male? Come ha fatto di male? Monti anche dopo 2013? Beh, credo che sarà conveniente per una coalizione proporre Monti, perché riesce a mazziarci e al tempo stesso a essere accreditato come una persona seria che occorreva per l'Italia. Quindi, beh, questa qua è poco casiniana come risposta. Ma io non sono Casini, infatti, stiamo parlando di vicinanza. No, vicinanza, infatti. Grande coalizione o ammucchiata dopo il 2013? Ma non ci sono ammucchiate fattibili, ormai gli italiani dovrebbero aver capito che le ammucchiate... Ci saranno certamente dei movimenti, no, di marchi nuovi. Però lei la grande coalizione piace o no? La grande, tutti insieme. Ma com'è sta roba, grande coalizione? Mi piacciono le collezioni che PD. Abbiano un senso. Ah, che un senso, un senso. No, per cui non più insieme PD, PDL, Terzo Polo. Ma adesso c'è una questione adesso, tecnica, dopo, no? Dopo, essere, ma dopo credo, no. Che non, credo che non sarà possibile, non sarà possibile per motivi anche mi è poco prettamente elettorali. Mi è ma no, poco ma vede, la differenza qual è? Che io parlo... Ma lei è una persona che lavora nella sua testa, mica. Una visione, credo, molto ancora più da cittadino che da politico. No? Vista senta, quest'altra cosa: Fini e Casini saranno sempre i numeri due, vero o falso? Del Terzo Polo? Numero due, perché il numero uno chi sarebbe? Sì, Casini. No, no, non è così. Ha detto Fini e Casini. Sempre. No, scusa, Fini e Rutelli. Le domande, si fa le domande tra bocchetto. Fini e Rutelli. Ma non è Motti che dà un giudizio. Ma secondo lei, la storia che poi dirà chi è il numero uno. Però per adesso sono i numeri due. Io, Casini è il leader. Beh, se permetti, io sono dell'UDC, non considero non considero neppure la questione. Per me Casini è un grande saranno leader. Sempre punto. I numeri due. Per me Casini è un grande leader, punto. Punto. Ognuno guarda i suoi leader, no? Il responso, caro Parenzo, è che casiniano al 50%. Io ringrazio Tiziano Motti di essere stato con noi. Figuratevi, grazie a voi per l'invito. Che c'è? Che devi chiedere? No, ma io sono disperato, il signor Cesa non si vede mai, non c'è mai. Ah, il signor Cesa. È il vero segretario Cesa, peraltro. Sì, ma sì. Posso dire, ecco, questa è il segretario dell'UDC. Cesa? Sì, è Cesa. Ma non c'è mai? Come mai? Beh, se per quello Casini è scritto dappertutto e non è neppure, voglio dire, il presidente, quindi non è una questione di ruoli, di etichette, di biglietti da visita, è una questione di lavoro. Ma tiratelo fuori dal freezer, perché mi dispiace. Ma è dappertutto. Sì, è un po' di tempo che non fa dichiarazioni. No, scusate un attimo, però. Allora, o il politico sta in mezzo alla gente, non lo vedi mai in TV, e dice che non si vede mai. Cesa in mezzo alla gente, no, non ce lo vedo. Grazie, pubblicità. Voglio l'assegno, eh? Sì, che quello arriva sul conto corrente. Grazie. Siamo qui 20:15 800 24 00 24. Parenzo? Sì. Eccoci, Donato Reggio Emilia. Scusi Donato per l'attesa. Allora, Donato da Reggio Emilia è il segretario della Federazione di Reggio Emilia del Partito dei Comunisti Italiani? Sì. Allora, scusi, non ho capito, io questa foto qui è chiaramente un fotomontaggio, nessuno ha detto il contrario peraltro, però c'è scritto chiaramente... Però abbiamo fatto un passo in avanti verso la verità, facendo capire che non si tratta nulla del filmato della maglietta con lo spirito goliardico di questa foto, chiaramente. Ma non è goliardico, c'è scritto Cimitero Fornero. Sì, è come dire, non so, Villa Paradisi, oppure, non so, intestare un qualsiasi luogo. Però bene ha fatto a leggere invece i contenuti delle lapide, perché nel contenuto delle lapide noi quello che volevamo mettere in evidenza era proprio questo, no? Ha provato a leggere, ne ha fatto solo due, la terza poi tra l'altro tanto per riderci sopra. Ma no, ma non è questo un riflesso. Il mio nominativo con una morte. Ben Donato, Ligio al dovere rincorrevi a 69 anni un ladro, fatale infarto. Bene, e quindi quello sarei io. Sì, ho capito, ma cosa c'entra tutto questo con... Lasciamo stare il cimitero, le metafore mortuarie, cioè non è una roba divertente in un clima come questo, parlare di morti quando si parla di riforma del lavoro, usare queste, almeno a me non fa molto ridere, però se gli piace così, figuriamoci, io non sono un... Scusi un attimo. La satira la dovrebbe conoscere Parenzo, no? La satira la conosce. La denuncia, però se mi fate dire le spiego il motivo. Però la denuncia che noi volevamo fare, e qual è? La denuncia che volevamo fare noi è che, siccome è stata fatta tutta un'erba in fascia sull'allungamento l'allungamento delle pensioni, è evidente che se dobbiamo mandare un moratore a 70 anni in pensione, può darsi che a 79 ancora su un'impalcatura a lavorare, come quello di un medico chirurgo che deve andare in pensione. Scusi, a 70 però lei in questo modo sta dicendo, dovrà fare qualche ma dov'è l'ironia? Allora, scusi, in questo modo, scusi, questo Donato, si fermi un attimo, adesso non è che può fare il comizio dei comunisti italiani qui. Allora il punto è questo, lei scrivendo Cimitero Fornero, un lavoro sicuro per l'eternità, riferendosi all'aumento dell'età pensionabile, credo, e non alla riforma del lavoro, dice che il signor Carlo Rossi, naturalmente non esiste il signor Carlo Rossi, esperto muratore, cadde dall'impalcatura a 69 anni, due giorni prima di maturare la sua agognata pensione, e dice che indirettamente la signora Fornero, se non direttamente, ha provocato con l'aumento dell'età pensionabile la morte di questo signore, o no? Che per fortuna non è avvenuto, ma il rischio ci sarà, perché nel 2020 le persone continueranno a lavorare fino a 70 anni. Ma lei è completamente fuori di testa, cioè lei è completamente fuori di testa, lei sta attribuendo alla signora Fornero l'eventuale morte di uno che lavora a 69 anni, peraltro non è nemmeno detto che sia così, non è detto che quella categoria di lavoratori debba lavorare fino a 70 anni, si sta inventando tutta una cosa il cui principale significato è semplicemente nel titolo, Cimitero Fornero. Cioè la Fornero responsabile della morte di persone, ha capito o no che questo è il messaggio? No, ma questo è quello che dice lei. Ma quale satira, Donato? Ma mi ha detto una cosa che non è satira, su. Le torno a dire un attimo solo, traffico, un attimo solo. Ma sono povera, quello dei bambini fanno quello innamorato del piccione, quello di Luca era gay, quello della convinzione di avere la verità. La verità. Parenzo, Parenzino. Questa è la segreteria di Parenzo. Essendogli stato pignorato lo stipendio per devolverlo a non si sa quale onlus. Sì. Per 3 mesi non risponde. Risponde alla segreteria. No, dovrebbe rispondere per metà trasmissione. Anche sì. È in collegamento con noi, oltre al signor Donato, segretario della sezione Reggio Emilia del Partito dei Comunisti Italiani. Bella sta musica. Che ci vuole inutilmente spiegare. C'è poco da spiegare, amico mio. Molto poco. È una cosa di una gravità inaudita che avete. È gravissimo quello che avete messo in piedi. Il significato di una specie di fotomontaggio con su scritto Cimitero Fornero, sicuramente di questi tempi, è una cosa moderata, molto accattivante. E abbiamo con noi Povia. Ciao. Ciao ragazzi, ciao, come state? Ciao. Come andiamo? Io vi sento sempre, siete troppo forti. Allora, ma che cosa fai? Un tour? Ma che vai a fare in tour? No, ma come? Tu sei un cantante, per forza. Sì, hai ragione. In tour con un nuovo disco, I Bambini Fanno Rock. I bambini fanno rock perché è un messaggio un po' a tutti, ma soprattutto a tutti i genitori che hanno i bambini, i ragazzi che avevano magari nel 2005 quando uscite I Bambini Fanno, avevano 10 anni, oggi cominciano già ad essere maggiorenni, quindi quanto è hanno? Un, 7? Beh, maggiorenni un messaggio no, di però... crescita. 7 anni adesso, I Bambini Fanno era 2005, no? È un messaggio di crescita, sì, dal 2005 adesso al 2012 è un messaggio di crescita appunto per tutti, ma non solo per noi genitori, anche per chi ci gestisce. Senti un po', ma... Da quando parte il tour, scusa? Il tour parte il 9 aprile da Borgo Santa Maria Pineto in provincia di Teramo ed è la data numero 0. Data numero 0. Senti Povia, ma hai visto che poi tutte le cose che tu dicevi, tutti parlano di gay adesso, una cosa pazzesca. Cioè in questi ultimi giorni. Sono i gay stessi che, come c'è una battuta di qualcuno da una parte o dall'altra, nel bene o nel male, positiva o negativa, si agganciano perché fanno, diciamo, è un modo per far parlare dell'omosessualità. Ah, tu dici che c'è la lobby gay, eh? Beh, lobby, sì, vabbè, tanto tutti dicono di no, ma tanto, tante cose non si possono dire, ma poi ci sono. No, ma tu le puoi dire tranquilla, se non le dici tu le cose, chi le dice? Non è che fai, io le dico, non è che fai il politico, no, non è che poi fai a politico. Me mi hanno detto, mi continuano a dire questa, che è una malattia, tu hai detto che è una malattia. Ma è vero che l'hai Luca detto o no? No, perché nella canzone si dice proprio nessuna malattia, nessuna guarigione nella canzone Luca Righè. Poi dico dentro di me, magari è una malattia, almeno si potrebbe curare, invece non è una malattia. Vabbè, comunque, pare che ultimamente tu abbia scritto una cosa che ma è stata... Ma sai che però, scusa, c'è una battuta in America che fanno sempre, lo dico a poveri, perché il testo della canzone secondo me è ispirato a quello. Ma quale testo? Luca era no, gay? No, il testo Luca era gay. Io quando ero ragazzino, beccavo molto poco, quando ero molto giovane, a differenza di Sor Cruciani, molto poco, e allora ci avvicinavamo a queste ragazze bellissime, americane, quando giravamo, insomma, venivo a Roma tra i miei amici, mi avvicinavo a queste americane e dicevo, I am homosex, but I wanted to change idea, can you help me? Cioè evocavo questa idea della volontà di cambiare idea, non funzionava mai ovviamente perché comunque queste scappavano via tutte, però l'idea era quella di dire e no, non ha mai funzionato, e siccome il testo della canzone di Povia un po' si ispira a questa idea del cambiare il gusto. Ma comunque pare che ultimamente Povia abbia scritto una cosa poi cancellata su Facebook, adesso ho capito che per caso fate tutti parte dell'Arcigay, ma se siete nati così non è colpa mia, prendetela con i vostri genitori e con la musica di merda che ascoltate, però se vi serve una mano ditelo, posso darvi qualche supposta di Eterox. Ma è vero che hai scritto questo o no? No, vabbè, ma su Facebook si possono creare profili falsi, hanno preso la mia foto e hanno scritto sta cosa. Ah, non è tua? Ma secondo te... Ma che ne so, ma no, ma io infatti ti conosco, pensavo, cioè, che ne so, ho letto una cosa del genere. Sono una cosa elevata, comunque la supposta Eterox esiste. E che roba è sta supposta? Che è sta supposta? È un suppostone tipo dirigibile, che lo prendi per una settimana e poi guarisci. Ma guarisci da che? Ma che mi fai dire, porca, che cavolo mi fate dire? Ma è vero allora che l'hai scritta sta roba? Ma va, ma secondo te... Che ne so, ma negli ultimi, tra l'altro Repubblica, su Repubblica pare che siano riportate alcune frasi che hanno scatenato le polemiche in questi ultimi anni tue, io non so se poi siano tue o non siano tue, per esempio, sì, perché elencamele che io ti dico sì, vero, no, fatto, allora, c'ero, non c'ero. Per me che due gay o due lesbiche possano adottare un figlio non è affatto giusto, il bambino si, chi chiamerà papà, vero o giusto? Vero o giusto? Ho sbagliato. Verissimo, verissimo. A parte che è pedagogia, scienza dell'educazione, i bambini dovrebbero avere figura materna e figura paterna. Giusto, però vabbè, questo io. È giusto. Vabbè, poi no. Freud diceva che l'omosessualità è contro natura e chi vuole cambiare può cambiare. Dunque tu avresti detto che l'omosessualità è contro natura. No, non ho detto che è contro natura, però secondo però lo me... Pensi. Cioè, no, no, nel senso che due uomini magari si mettono insieme e poi pretendono di adottare dei figli, no, quello non è giusto secondo me. Gay non si nasce ma lo si diventa in base a chi si frequenta. Ma quello è possibile, perché no? Cioè, ognuno di noi è la somma delle persone che ha conosciuto nella vita. No, sono prove contrarie. Stai zitto, Parenzo, fai rispondere. Se un individuo omosessuale vuole cambiare, ha diritto di farlo. Certo, ha diritto e dovere di provare a cercare una strada per cambiare. Ma ah, anche, dovere addirittura? Scusa, se uno vuole cambiare, che fai? Lo blocchi? No, no, per carità, ma secondo te no, dunque si può diventare da omosessuali eterosessuali? Cioè, si può cambiare attraverso qualche cura, attraverso che cosa? Beh, cure no, perché non è una malattia, il cancro è una malattia, uno può cambiare, perché secondo me, secondo la scienza che non ha provato ancora la nascita del gene eterosessuale o omosessuale, in entrambi i casi tu puoi cambiare, se no tu mi puoi dimostrare che c'è un certificato dove due cromosomi si sono mischiati, hanno fatto pugni e uno è nato gay o eterosessuale, allora va bene. Parenzo, hai capito qualcosa te di quest'ultima cosa? No, dei cromosomi non ho capito, francamente. Io penso che... Se la scienza un giorno proverà che dei cromosomi si sono mischiati, hanno fatto a pugni e un individuo è nato gay o eterosessuale, allora dirò va bene, ma fino a prova contraria per ora ognuno diventa con la all'interno di un mondo che frequenta, dici tu, no? In base alla relazione sociale che ha avuto nella vita, ma questo non lo dico io, se offende lo fa la scienza, la medicina, io riporto. Povia, mitico Povia, Parenzo. Allora, ho un bambino che vede due uomini che si baciano, non puoi dire che si tratta solo di due uomini che si vogliono bene, perché due che si vogliono bene non si baciano sulla bocca, no, questo ma non come? L'hai detto. Sì, certo che l'ho detto, se no un bambino cosa dice? Allora cos'è? Baci sulla bocca chi vuoi bene? No, ma non è diventato, canta benissimo, è diventato un reazionario incredibile. Sopovia, ma non è vero, ma te lo giuro, sono cose che ti ma vengono. Puoi andare, puoi andare tranquillamente a Radio Maria. Se, ma, mi sono visto che Radio Maria non ha mai passato. Ma Luca, io non sono cattolico, cioè non sono neanche sposato in chiesa. Sono un credente, però sono un credente, diciamo, anarchico. Scusa un attimo, non ho capito bene questa cosa. Un bambino che vede due uomini che si baciano, non puoi dire che si tratta solo di due uomini che si vogliono bene, perché due che si vogliono bene non si baciano sulla bocca. Ma non... dai. Che vuol dire? Scusa una cosa, ma un bambino vede due uomini che si baciano sulla bocca o due donne che si baciano sulla bocca e dice: ma scusa, ma che cosa stanno facendo quei due? E la mamma o il babbo risponde: no, vabbè, sono due persone che si vogliono bene. Allora il bambino pensa: allora a chiunque io vorrò bene nella vita gli dovrò dare un bacio sulla bocca. No, ma ho capito. Anche le risposte le do anche col sorriso sulla bocca, non è che mi prendo seriamente. Cioè tu perché quando pensi che sia preoccupante possa essere, che ne so, se un bambino vede due uomini che si baciano, due donne che si baciano, potrebbe essere traviato o cose di questo tipo? Però, no, beh, traviato adesso la sai, traviato è un verbo inventato dagli uomini, ma sei Cruciani, non fare il sito comunista col cuore a sinistra e il portafoglio a destra, prova a pensare a tuo figlio se vedesse una roba del genere. Ma me ne fregherei, ma figurati, guarda, ti assicuro che me ne fregherei in maniera più assoluta, cioè me ne fregherei totalmente. Ma cosa te ne freghi? Andrei avanti, freghi? Dice vabbè, ma che succede? Che... andiamo avanti a vabbè, è per questo che l'Italia va male, perché andiamo avanti a vabbè. Ho capito, l'omosessualità, ma che... spiegata dal signor Povia, grande esclusiva della giornata. Povia tour live a partire dall'inizio di aprile, i bambini fanno rock, adesso ci canti qualcosa, tutto sentiamo, questo, sentiamo qualcosa in diretta, tutto questo dopo serata di grandi canzoni, tutto questo dopo la borsa, 800 24 00 24. Intanto che ha fatto? È scappato quello? Del PDC, comunista, quello del Fornero, il cimitero, là, le cose, vabbè, richiamatelo. Sono Povia, quello dei bambini fanno quello innamorato del piccione, quello di Luca era gay, quello della convinzione di avere la verità. La verità è che a qualcuno non gli va che sono qua, però se sono qua qualcuno mi vorrà. E siamo qui, Radio 24, solo 24 ore, la Zanzara, 800 24 00 24 con Povia, nostro ospite, in quest'ultima parte insieme ad altri che adesso chiameremo, ascoltatori soprattutto. C'è sempre Donato da Reggio Emilia, caro Parenzo, che c'è? Che c'è? Ma il segretario di Fondazione di Comunisti di Reggio Emilia è ancora lì? Sì, sì, eccolo qua. Donato, allora, signor Donato tolto, stava mangiando la pizza. La tortura stasera, sono in tortura. Ha tolto quel vergognoso cartello sul cimitero. Allora, Parenzo, io siccome la ritengo la Zanzara buona... Niente, non pronunci il mio nome in vano, ma il concetto è che non si può scherzare con le metafore dei morti. Perché ma morti non ce ne sono, ma come no? Lei su dice quella foto non Fornero. C'è nessun morto, ma non vero, Parenzo. Ma certo che non c'è nessun morto vero. Allora, Parenzo, colloquiare un attimo con Parenzo. Allora, la prima domanda, ha visto la foto? No, si è fidato della Zanzara cattiva. Ma non c'è visto la foto? No, scusi, signor Donato Bena, come si chiama, segretario della PDC di Reggio Emilia, lei ha costruito una enorme minchiata, cioè ha costruito una fotomontaggio che è una roba vergognosa. Adesso, quando l'ha fatta sta roba? Quando ci ha pensato? Di notte? Quando ci ha pensato? È durato un'oretta, ieri. Ieri ci ha pensato. Lei nel mezzo delle polemiche sulla Fornero, su quello che era avvenuto. Nel mezzo delle polemiche sulla Fornero, la maglietta. Ma infatti era per sdrammatizzare. Ah, per sdrammatizzare, certo. E per sdrammatizzare lei scrive. Si chiama satira. Si chiama ma quale satira? Cimitero Fornero, un lavoro sicuro per l'eternità con cinque le lapidi. Questa è satira. Povia, dica qualcosa lei al signore comunista qua. Più morti, più posti di lavoro. Beh, adesso più morti, più posti di successo, più morti ci sono e più si aprono prospettive di lavoro. Ma stasera è andato tutto bene. Abbiamo perso Povia, questa è la notizia. Abbiamo perso Povia. Signor Donato, tolga questa roba dal sito dei comunisti italiani e dove ma diavolo. Ma non è stata mai messa sul sito, quella è un'altra bugia che ha detto. E dove sta? Dove è stata messa? Dove è stata messa? Il suo collega che è andato a vedere sul sito. Noi abbiamo chiuso il sito da un anno per motivi di soldi. Vabbè, ho capito. Quindi sul sito non è stata mai messa, quindi questa è un'altra bugia. E dov'era? Scusi, su Facebook dov'era? Su Facebook. Era stata messa su Facebook. Vabbè, è uguale, su sito Facebook è uguale, dai. Pubblicata dall'ANSA, tra l'altro, sul portone di casa. Sta ridendo come un pazzo, Povia. Allora, io non ho capito una cosa, signor Donato, lei si pente di questa stronzata, sì o no? Allora, ritorno a dire che cos'è la differenza tra la satira ma e non altro. È satira! Questa no. Quale satira? Sì, Cimitero Fornero! Una denuncia ben precisa. Ma quale denuncia? Sì, la denuncia. Con la modifica del sistema delle pensioni, noi portiamo delle persone che hanno dei lavori particolari a lavorare fino a 70 anni. Sì. E quando questo accadrà, perché adesso ancora non c'è, e ma questa è satira. Accadrà, e questa è satira. Ritorno a dire che è molto più facile che un muratore di 79 anni cadi dall'impalcatura. Ma dov'è la satira qua? Un giovane di 50. Ma dov'è la satira? Allora, questo è un problema. No, ma dov'è la satira qua? Io non capisco, lei sta facendo un ragionamento, secondo me folle, ma un ragionamento. Ma dov'è la satira in questa cosa qui? Ognuno è fatto a modo suo, no? Anche lei contribuisce alla causa. No, ma io perché è della causa della follia, dice lei? Ognuno è fatto a modo suo, no? Vabbè, senta. Io la sento ogni sera, l'ho definita la zanzara tigre, mentre la zanzara nostrana Parenzo è dove mi trovo sempre... Scusi, ma lei come l'hanno reclutato nel Partito dei Comunisti Italiani, dottor Di Liberto? Adesso io farò una segnalazione al signor Di Liberto, che conosco bene, per dire, guardi che c'è un segretario a Reggio Emilia che si chiama Donato Vena, che pensa che sia satira fare 5 bare, 5 lapidi con scritto... Non sono 5 bare, continua a dare delle bugie. Lapidi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono, con scritto sopra Cimitero Fornero, un lavoro sicuro per l'eternità, questa sarebbe la sua satira, si vergogni, signor Donato. No, deve scendere a leggere cosa c'è scritto sulle lapide. Ma è uguale, però. È uguale, non è c'è uguale. Una mano tremante di un chirurgo settantenne pone fine alla tua bella e radiosa vita. Cioè, lei dice che a causa dell'età pensionabile prolungata di un medico sarebbe morto un signore. Questa sarebbe satira, secondo lei? Certo. Povia, è satira questa qua, si è messo a ridere lei? No, di 70 anni. Si farebbe operare o no? Ma che c'entra su? Scusi, signor Donato. Donato, di dire fino in fondo che le politiche messe in atto dal ministro Fornero sono politiche criminali, che deve avere questo coraggio, perché se no, se lei gioca sul concetto di produce, ecco, il lavorare fino a 70 anni. Vabbè, ma tu stai dando serietà a quello che non è serio. No, serietà. Discuto con una persona che è un dirigente politico. Ma quale dirigente politico? Ma di che parli? È il segretario di Comunisti Italiani a Reggio Emilia. Ma ho capito, ma hai capito di che si sta parlando o no? Cioè, io vorrei che fosse... Ma è un dirigente politico, non è un bubù che passa, non è un cucciare qualunque che passa. No, dirigente politico, adesso, non esageriamo. Dirigente politico, adesso, io non rido. Ma quale dirigente politico? Sì, ma di che parli? Ma come vuoi? Lei è il segretario di... Vabbè, allora io voglio la conclusione, come grazie Donato, la conclusione su Povia. Allora, secondo Parenzo, dopo quello che ha detto prima, il test di omofobia, il signor Povia, cantante, già autore di una famosa canzone, è omofobo, sì omofobo, o no, secondo Parenzo? Un po' omofobo è il signor Povia, però fa delle belle canzoni. Ma quanto? Sei omofobo quanto? Come Giovanardi? No. Come Giovanardi? No. Non è omofobo, io voglio capire chi è questa fidanzata di Luca, perché sono veramente curioso, se è una storia vera e Luca era gay, voglio sapere chi è questa qui che gli ha fatto cambiare idea. No, ma scusa, c'è una bellissima intervista pubblicata... Ma omofobo cosa vuol dire? Paura dell'omogeneizzato? No, omofobo... Sì, questo è vero anche, uno dice sempre omofobo, ma lo dice a macchinetta come se... No, dai, finora abbiamo scherzato, poi ci sono tanti poviofobi, perché c'è gente che adesso mi ha preso proprio di mira, ma i gay sono stufi di sentir parlare di gay, che palle ragazzi, io adesso vi prendo anche un po' in giro, però... aiutatemi a farmi pubblicità che mi esce un disco bello che si chiama I Bambini Fanno Rock. Ma questo rock, l'abbiamo già detto due volte, più di questo che dobbiamo dire. Ridillo che la gente si scorda. Fammi una canzone, dai, fammi un live di qualcosa. Allora, dai. Preparatevi dunque, ho quasi 40 anni, non sono mica un santo, ma almeno in ciò che canto sono onesto, nelle persone io vedo il dolore e lo scrivo, ma il mio messaggio alla fine è positivo. Questa non è male. Un'altra? Questo è il rap. Un'altra. Cerco di dire di dare qualcosa a qualcuno, mi basterebbe anche aiutarne uno. Mi credi furbo e presuntuoso? Va bene, così sia, ma trovamene uno che non lo sia. E mentre voi potenti giocate, i ragazzini fanno uso di cose sbagliate. Apri gli occhi, coniglio, pensa se tra quei ragazzi ci fosse tuo figlio. Senti, ma facciamo Giovanardi era gay. Facciamo una canzone per Giovanardi. DJ, adesso fa il politico. Facciamo una cosa sul signor Giovanardi, così gliela regaliamo. Dai, mettetemi la base di Luca era gay. Basso, non la base. Insomma, la base. La canzone. Sì, una cosa per il signor Giovanardi. La voglio. Scontigione. Dai, una cosina per il signor Giovanardi. Un regalo, un regalino. Luca era gay, ce l'abbiamo. Dai. Giovanardi l'ho conosciuto, mi sa anche simpatico. Sta simpatico, signor Giovanardi, eh? Non so di che partito è, non so di che partito è. PDL, vabbè, uguale. PDL, quello. Cosa vuol dire partito? Non lo so, dica lei. Partito, dica lei. Popolo della libertà, popolo della libertà. Ah, no, pensavo partito dica lei, però. Vabbè, di Giovanardi era gay e adesso sta con sei, poi è ritornato gay perché gli piace lui, che è un, visto che si parlava di cimitero, poi è andato con un nero, ma che cazzo mi fai dire? Stai a dire? Grazie Povia, a presto, ciao. Viviana da Roma, Viviana. Da comporre. Niente, Carmine da Padova. Niente, Antonio da Napoli. Ma che succede, ragazzi? Facciamo ordine. Pronto? Facciamo ordine. Che è Antonio? Questo qua è Antonio? Sì, mi sente? Sì. Senta, volevo dirle, io è una decina di giorni che seguo questa trasmissione che fanno loro, ma volevo chiedere, ma è una rubrica per i gay, pro gay, che tipo di... Sì. Perché generalmente io vi seguo quando torno dal circo, dalle 7 alle 8, ma sento parlare sempre di queste cose. Allora? Una rubrica per gay, che cos'è? Una rubrica, sì, è Radio Gay. Radio Gay. Radio come... Gay? Sì, è diventata no, Radio Gay. Un paio di volte ho sentito fare delle domande a gente, genitori che hanno 4 figli, 5 figli. Sì. Signore Paghi, signor Parenzi. Che se la vide quando uno... David, un chiami tu o chiamo io? David? Un telefonato. Lei sta chiamando da un reparto specializzato, no? Perché questa è una chiamata in convenzione col Ministro della Salute. Ah, va bene, senta, volevo dirle, sì. Lei è quello che se la vide quando viene da ora che ha 5 figli, cosa tende ad avere un figlio gay? Sì. Sì. Lei è quello che fa queste richieste, se la dite? Sì. Le richieste, più o meno. Io tengo 5 figli, però li ho fatti non per farli diventare gay. No, certo, no. Per farli procreare, certo. Come i miei figli, sì, se diventassero gay o drogati, sì, io da genitore, sì, da 5 figli, sta sicuro che non l'abbandonerei. No, certo, figlio, perché poi gay o drogati è la stessa cosa, certo. Non me la rido. No, per carità. È sempre telefonate in convenzione, no, Parenzo? Oggi fate. Parenzo, telefonata in convenzione con se non vado errato. Sì, aspetti, scusi un attimo. Cari ascoltatori, la telefonata che state sentendo è stata realizzata in collaborazione con il Ministero della Salute, in diretta dall'ospedale psichiatrico. Che l'ho visto anche l'altro signor Cugiano con quella manina lì a omnibus. Secondo me deve tornare in camera, sa. Sì, beh, non te la dite quando chiede a qualcuno che ha 5 figli di è contento di avere un figlio. Torni in camera del reparto lungo degenze, che adesso sto in camera. L'ho vista, ecco, secondo me non siete né sposati, no, e non avete neppure figli. Ma la manina fusolata pure, com'è che... manina fusolata. Ma non vi ho visto per televisione. Con queste mani affusolate. Non ho capito ancora. Con queste mani affusolate. Le domande, sì, a dei genitori che ci hanno figli e fanno sacrifici, e ve la ridete se ci hanno, se dicono che qualche figlio che non lo voglio, non lo voglio. Non vi preoccupate, quelli non lo abbandoneranno mai. Sì, no, ma non si preoccupi. Lo stesso. Però voi, secondo me, i figli non ne avete. No. Senta, la risposta non me la date, ma ci siete o ci fate? La risposta è molto difficile darla, anche perché siamo la telefonata in convenzione, mi sembra che vada a terminare, no Parenzo? Hanno anche un termine le telefonate in convenzione. In convenzione col Ministero della Salute, mutuabili, sono le telefonate mutuabili. Vengono fatti riprendere l'ospedale psichiatrico, e quindi traffico, un servizio che noi offriamo, sì, che un servizio offre a tutti coloro che ne hanno bisogno. Bene, andiamo a Viviana da Roma, se c'è, signora Viviana. Sì, sono qua, sono qua. Vada. Ho perso un po' il senso di quello che avrei voluto dire, però. Vabbè, uguale. Perché a sentire quello che ho sentito, ho detto anche a me viene da sorridere, va bene tutto. Allora? Allora, io ho sentito quello che diceva Orlando, sono pienamente d'accordo. Ma con che cosa, scusi, è d'accordo? Con che cosa? Con il discorso di non poter essere, di poter rispettare questa, questa promessa, che poi non era una promessa, ma insomma era un, diciamo, nell'insieme di un accordo fatto probabilmente, sulle primarie, perché effettivamente è già difficile accettare le primarie per un partito piccolo, o medio piccolo, perché insomma ci si adatta e ci si, e si assecondano certe, certe teorie, e poi alla fine no, scusi Viviana, non ho capito niente, perché avrebbe ragione, scusi, perché avrebbe ragione il signor Orlando? Ha ragione l'onorevole Orlando, ha ragione, perché è difficile già accettare per un partito da dove viene l'onorevole, io conosco l'Italia dei Valori, è già difficile accettare delle primarie che ma come difficile? Hanno partecipato, adesso dicono che sono truccate. Ma io lo so che si è partecipata, anche allora? Io partecipo generalmente se si fanno, no? Però il discorso è questo, si partecipa per vedere alla fine, per assecondare e per una coalizione quando la coalizione funziona. Ma se la coalizione se funziona, certo. Se ho capito, funziona. Scusi, cara signora Viviana, il punto è molto semplice. Come ha detto prima Parenzo, Orlando sostiene che queste primarie siano truccate, ci siano stati degli imbrogli. Questi imbrogli, che ne dica Orlando, non sono stati certificati da nessuna autorità terza. Lei ha ragione, ma per ha vinto uno, basta, ha vinto, ha visto un tizio. Ma che c'entrano i gradi di giudizio? Ma non c'entra niente in questo. Ho capito, ma insomma non ci si può, cioè non si può pensare che quando le primarie vanno in un certo modo va bene, e invece quando non vanno come uno vorrebbe, uno dice vabbè, sai quando, il giocato non funziona più. Sai quando uno è bambino, no? Cioè, rifacciamo la partita, no? Ho perso, però rifacciamo. Cioè, no, non siamo più. Oppure se giochi a risico, non ti puoi fregare i cararmati di quell'altro, scusami. A un certo punto dici no, non funziona più, niente, voglio i cararmati. Maura da Roma, buonasera. Buonasera, buonasera. Dunque, io vi sento sempre, perché torno poi da lavoro a quell'ora, quindi sono via, quindi vi sento sempre, mi siete molto simpatici, trattate i problemi così in maniera non noiosa, perché poi veramente mi siete piaciuti moltissimo con Garvi quella sera, mi sono fatto meditare, però questa sera vi dico la verità, insomma. E prima di tutto con il fatto di dare molta importanza a una, a quella della Fornero, cioè, sinceramente il terrorismo non si alimenta in quella maniera, e poi diciamo pure non abbiamo, non abbiamo dato importanza, ha chiamato lui. Però io ho chiamato per Giova, perché io ho degli amici Povia, omosessuali, sì. I miei amici, i miei figli sono cresciuti, io ho 56 anni, sono cresciuti con degli amici omosessuali, sì. Non hanno preso nessuna, diciamo, così contagio degli omosessuali, e gli omosessuali sono omosessuali perché sono così, e non si può prendere in giro un omosessuale dicendo che può cambiare e che deve cambiare. Ma scusi, ma perché lo dice a me? E lo dico, bene, lo dica a lei, perché lo lei dica, lo dica. E poi senta, anche lei qualche risatina, insomma, via di dopo, perché io capisco. Guardi, cioè, allora lei ascolterà pure tutte le serie, ma ascolta poche, evidentemente, sì. Perché no, no, o ascolta, io lo so benissimo che e ascolta male. Allora di che parliamo? Scusi, parliamo del fatto che magari dando, cioè quando Povia dice delle cose, quelle cose, insomma, che sono. Ma lo dice Povia, sono affari suoi, cioè non. Va bene, ma lei, cioè, lei potrebbe almeno dire che non è dire una cosa che, cioè, sono cose che stanno fuori, oltretutto con una mancanza di spirito critico e tutto il resto. Questo dicevo. Vabbè, perché naturalmente io non anche l'atteggiamento che ha lei verso Povia, poi alla fine conta sulle persone, visto che tutti quelli che l'ascoltano, ovvero sia, è come dare a delle stupidaggini dette da Povia, stupidaggini veramente di omofobia, molto spazio. Ecco, va bene, grazie. Dire. Andiamo a Paolo da Treviso per concludere, velocissimo, Paolo. Sì, buonasera Cruciani. Beh, innanzitutto l'Orlando è un democratico in intermittenza, ma non ho chiamato per questo, io chiamo per le dichiarazioni di Gentilini. Sì. Gentilini dice, bravo, che in definitiva cosa volete che sia una palpata di sedere? Si vede che lui non ha mai ricevuto una palpata o un pizzicotto sul sedere. A me è capitato la vetrina di un negozio, c'è tutto, mi è arrivato un E che cos'è? Violenza questa? Com'è? È una violenza questa?